sì, quella anche di Bettadine, una festa, lì Piazza Orange, per dire quella piazza non è di Giorgio Almirante, ma è della città di Giorgio Almirante. E dalle 18 invece abbiamo sempre più accesso alla cartella per un mercatino dell'altro consumo, perché si svolge solitamente appunto la domenica qui da là. Vi lasciamo di nuovo con la musica che c'è.